Ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asilo. Questa trasmissione sarà registrata perché domani ci sarà una serata di autofinanziamento per il nostro centro sociale, che invitiamo compagne e compagni in questa iniziativa musicale proprio per sostenere il centro sociale che ricordiamo. Da qualche mese è ritornato, diciamo, a ripigli battenti, dopo aver pagato la bolletta della luce. I problemi economici hanno una loro importanza in tantissime realtà italiane. Questo problema impedisce se non l'apertura, ma anche la chiusura di alcuni spazi. Comunque, la trasmissione di oggi, odio gli inni nazionali. Per quale motivo? Vabbè, sono cominciate le partite del campionato europeo per nazioni, come sono iniziate le partite della Coppa America, e questa questione degli inni, chi vi parla piace il calcio, è anche tifoso. Ma principalmente un militante antagonista, un militante comunista libertario. Allora, perché odio gli inni nazionali? Al di là di questo sentimento nazionalista, le mani sul cuore, ma la cosa vergognosa è vedere la squadra turca, quei tifosi proprio che sembra esagitata al nazionalismo turco. Ma la cosa ancora più squallida è stata quella della Coppa America, dove il fascista Bolsonaro ha imposto alle squadre e alla federazione sudamericana del calcio di fare le partite nel Brasile, nonostante che, diciamo, per dire, l'allenatore della squadra brasiliana aveva posto un problema, e Bolsonaro lo ha etichettato come oppositore al governo, nonostante l'opposizione anche dei giocatori, ma i giocatori di tutte le squadre. Il problema è che dietro questi tornei ci stanno sponsor che, diciamo, ma su Bolsonaro ci sta proprio un fattore economico-politico. Quello che risalta è il fattore politico, c'è cioè una partita di regime, uno stadio totalmente vuoto, gli effetti sonori erano proprio a prendere per il culo la gente. Però è chiaro che Bolsonaro ora sta, tra 16 mesi mi sembra ci saranno le elezioni, per cui lui gioca la carta populista e gioca anche la carta militare, come tra l'altro si sta verificando in altre nazioni e in altri stati latinos. Ecco, oggi ritorniamo a perché odio l'inno nazionale. Odio l'inno nazionale perché si cerca di coprire tutto quel che di scabroso, di pericoloso sta avvenendo in Italia. E parliamo di al di là dell'aumento delle povertà, le stragi sul lavoro, il riproporsi del ponte sullo stretto, quel che grida vendetta per noi militanti comunisti, per noi militanti antagonisti, per noi militanti comunisti libertari, sono le vicende che si stanno consumando di Cesare Battisti e Persichetti. Allora, che sono delle vicende che dimostrano due cose, due fattori importanti, l'aspetto vendicativo dello Stato, ma nello stesso tempo l'utilizzo di questi metodi repressivi come messaggio a chiunque, a coloro che, diciamo, si oppongono a questo stato di cose, perché potrebbero essere tacciati di associazione sovversiva. voler esorcizzare specialmente quegli anni che si possano riprodurre e riproporre. Allora cominciamo dalla vicenda, ed è chiaro che queste due situazioni di umano e umano politico di Cesare Battisti, per Stichetti, così come anche la persecuzione dei nostri esuli politici in Francia, diciamo, necessitano che come compagni e come realtà cominciamo ad uscire fuori, a mostrare la nostra solidarietà. Partiamo da Persichetti. Su Persichetti ci sono indagini per reati pesanti, quali il favoreggiamento e il famigerato 270 bis, associazione a delinquere di finalità di terrorismo. E la colpa è quella che sarebbe in possesso di divulgazione di materiale riservato elaborato dall'ultima commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro. Ricordiamo che cioè questa storia del caso Moro diventa sempre diventa come un capitolo, una serie, cioè una delle serie di un film lunghissimo, insomma. Ogni volta esce qualcosa di nuovo sul caso Moro, che tendono a valorizzare il concetto del complottismo, che questa è anche una remora del vecchio Partito Comunista, insomma, e via dicendo. Persichetti, diciamo, è uno studioso, un ricercatore, e diciamo che lui mantiene l'aspetto culturale della rilettura obiettiva di alcuni fenomeni, a partire anche dall'affare Moro, che è, diciamo, su questa storia, diciamo, ormai sono più di 40 anni, come dire, cioè, e tutte queste commissioni sul rapimento Moro sono cose che, come devo dire, ogni tanto escono fuori con annunci di chissà che quale scoperta facciano, sembra far capire che tutto quel fenomeno, diciamo, di quella fase storica in cui, è bene ricordare, abbiamo vissuto una fase in cui c'era una guerra civile, seppur di bassa intensità, in cui si contrapponevano i loro stati, cioè apparate le forze politiche, contro un'ampia fetta di comunità italiana fatta di operai, di studenti, di professori, di ricercatori, di tutto, insomma, che si opponevano a quello stato di cose, di cui le nefandezze, diciamo, quel movimento riuscì a ridurre i danni, a fermarli, a tamponarli, e l'assenza di un movimento politico di quella portata ha lasciato un'autostrada a 10 corsie per tutte le nefandezze che oggi si stanno verificando in Italia, non solo. È chiaro che il problema è proprio questo, cioè, e se uno, infatti sono le domande che molti compagni, anche di una certa età pure, si pongono, se, diciamo, promuovere una riflessione, una rilettura storica di quegli anni, cioè degli anni 70, sulla lotta di classe, rischia di rimanere inquisita. Allora, ecco, per dire, è il caso di dire in termini ironici, perché visto che Ecco, per dire, deriva Prodi sta promuovendo la storia dell'autonomia operaia a livello nazionale, quindi a livello regionale, a livello locale, e di quel fenomeno politico, di quel vasto fronte di opposizione politica, allora, ecco, ironicamente uno potrebbe dire, scusa, allora siamo in attesa di un 7 aprile bis, e quindi, come dire, ecco, diciamo che siamo in una situazione molto pericolosa, e diciamo la situazione attuale, diciamo, ecco, cioè, le grandi, cioè, nomenclature del capitalismo, sia politico, industriale che finanziario e repressivo, temono, a partire dalla nostra nazione italiota, temono che possano riproporsi tutta una serie di scenari, perché le ingiustizie sociali, le iniquità sociali potrebbero riprodurre fronti di opposizione, e magari che si possano verificare in Italia situazioni come stanno succedendo nell'America Latina, oppure anche nella stessa, negli stessi territori israeliani, così come negli Stati Uniti d'America il Black Lives Matter ha portato all'opposizione uno scontro sociale nel cuore dell'America, nel cuore dell'imperialismo, del capitalismo. Il problema è che la questione è questa, che l'operativo mantenimento della memoria storica fa paura. Fa paura perché, diciamo, il conflitto non continuerà, nessuna pacificazione potrà essere messa in atto, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Ed ecco perché, diciamo, come devo dire, diciamo, una rilettura che sta facendo Pesichetti, ma tra l'altro lo stanno facendo anche molti compagni, perché c'è bisogno di riflettere, di analizzare i corsi e i ricorsi storici, perché gli scenari che si stanno determinando davanti a noi, possiamo avere l'intuizione che ci aspettano scenari pericolosi, pericolosissimi, basati sul nucleare. Ecco, non tra l'altro abbiamo avuto a Ginevra l'incontro tra Putin e Biden, e tutto si è posto la cosa sul deterrente nucleare, e sul il messaggio che si dà al mondo intero, in cui si dice, noi siamo persone responsabili, nucleare, non ne abbiamo una visione comune, che significa, stati attenti a non romperci le scatole, le uova nel paniere. Ed ecco perché, diciamo, si ha paura e timore di mettere una crisi, di mettere una critica radicale al capitalismo, che tra l'altro risulta essere compromissore, risulta essere anche uno di quei fattori che stanno alla base anche di questa pandemia, pandemia a livello internazionale, e che nonostante nei primi tempi la pandemia abbia fatto uscire fuori tutte le nefandezze di quel che il capitalismo su scala planetaria abbia combinato, e come deve, si vuole impedire che tutta una serie di tematiche, dalla sanità, la cultura, l'ambiente, si continui nel si continua a perpetrare in un modo più sofisticato, più, come devo dire, più tecnico nell'opera di scempio. Ed è chiaro che chiunque si opponga a questo stato di cose, è passibile di reati, comprese quelle dell'associazione a finalità terroristica, cioè chi si oppone al TAV, chi si opporrà nuovamente al ponte sullo stretto, chi si opporrà all'energia, al nucleare civile, chi si opporrà alla precarietà, alla miseria, e diciamo è passibile di indagini e di appioppamento del famigerato 270 bis. Ecco perché ironicamente abbiamo detto allora questa rilettura dell'autonomia operaia nazionale a livello locale, a livello nelle varie città, a livello regionale, allora ecco, e che sia gli autori, sia diciamo, chi sta mettendo, casellando tutte queste memorie, possono rischiare di andare a rideterminare un nuovo 7 aprile quando l'autonomia operaia fu messa fuori legge. Allora, vediamo che diciamo, Cesare Battisti, ecco, nonostante che a livello nazionale da quegli anni, fino agli anni 80, ecco, il concetto della chiusura di una fase politica che della lotta armata abbia sancito per tantissimi motivi un'altra la lotta armata, quindi possiamo dire come la guerra finita, non la guerra in termini materiali, in termini di esseri umani, compagni e compagne che imbracciavano le armi e tante altre cose, sia terminato, ecco, nonostante appunto, potremmo dire questo tipo di guerra sia finita, continuano le forme repressive. Allora è chiaro che per dire la vicenda di Bersichetti era esiliata a Parigi con Cesare Battisti, Oreste Scalzoni e altri compagni esulita italiani. Bersichetti fu estradato dalla Francia, nel 1993 fu arrestato a Parigi, dove era arrivato legalmente prima della condanna in contumacia a 22 anni per banda armata e concorso morale nell'omicidio generale, dice Giorgini. Venne arrestato, liberato, ricordiamo il diritto di asilo politico in Francia con il presidente François Mitterrand. Dopodiché la vicenda si chiuse diciamo, il 24 agosto del 2002, dove è stata fermata dalla polizia francese, Bersichetti venne consegnato in una notte dall'autorità italiana sotto il tunnel del Monte Bianco. Virtù è come se fosse stato, come devo dire, rapito, perché l'estradizione non fu mai eseguita, non fu mai concessa. E quante illegalità, compresa anche la vicenda di Cesare Battisti, quante violazioni del diritto internazionale, vabbè, lo fanno a livello di figuriamo, cioè la violazione del diritto internazionale violato da Israele verso le comunità palestinesi, così come quello turco verso i curdi. Questa è la faccenda, è una faccenda che diciamo, necessita una nostra mobilitazione, una nostra presa di posizione su queste tematiche. Allora, prendere una posizione, perché, come dire, un'altra vicenda che grida, giustizia, che grida il senso di civiltà a livello ma anche di umanità, nonché politica, perché ricordiamo quegli anni bisogna riliberarli, bisogna riliberarli attraverso una valutazione politica, bisogna risolvere politicamente quella fase storica. E la vicenda, un'altra situazione simile a quella dei Bersichetti, forse ancora più grave per quel che si sta consumando, è la vicenda di di Cesare Battisti. Come dicevo, bisogna cominciare a prendere, diciamo, a prendere e schierarci anche pubblicamente, a fare iniziative. È un dovere politico, ma anche un dovere per ciò che è, diciamo, se questi sono, diciamo, se il buongiorno si vede dal mattino, ecco, bisogna cominciare ad attrezzarsi. Come stavo dicendo, abbiamo la vicenda di Cesare Battisti, e noi più spesso abbiamo detto, scritto, fatto trasmissione di dicendo sulla sua vicenda, e raccogliamo la lettera che ha inviato Cesare Battisti, quando un compagno sciopero della fame, allora, se necessario continuerà il mio sciopero della fame fino all'ultimo respiro. Questo, diciamo, è il titolo della lettera di Cesare Battisti dal carcere di Rossana. Vorrei leggerla questa lettera. Mi rivolgo ai miei amati figli, alla compagna di viaggio, ai fratelli e alle sorelle, ai nipoti, agli amici e ai compagni, ai colleghi di lavoro e a tutti voi che mi avete voluto bene e sostenuto con il cuore. Gli effetti devastanti dello sciopero chiedo a tutti voi un ultimo sforzo, quello di comprendere le ragioni che mi spingono a lottare fino all'ultima conseguenza in nome del diritto alla dignità per ogni persona detenuta, per la dignità di tutti, la dignità di affrontare le proprie responsabilità restando se stesse. La mia è una scelta radicale, se scelta si può dire, allorché resta l'unica via decente di difendere l'amor proprio, i valori umani e di giustizia che fin qui avete condiviso con me, la salvaguardia della memoria storica, ecco, e di quella affettiva. Il 2 giugno 2021 ho iniziato lo sciopero della fame, sapendo che non sarei tornato indietro, perciò cosciente di recarvi un grande dolore, ma avendo la certezza che il tempo alleviando il morso del dolore, voi converreste con me che questo era l'atto più degno che potessi fare per evitare di morire in ginocchio, dopo essere stato spremuto e usato per ogni scopo ignobile del potere. Sarebbe così tradire i valori di un passato in cui ho creduto fino alla deriva armata. Non mi sono mai sentito un criminale allora, né mi sento di esserlo oggi, pur nella consapevolezza di aver sbagliato. Seguivo, come tanti altri, dei valori fondamentali del diritto per la persona. Non posso permettermi di tradirli sulla linea deriva. Ecco perché vi chiedo un'ultima volta di aiutarmi ad essere me stesso e di perdonarmi per il dolore che vi reco. Voglio che abbiate chiaro che la mia è una lotta di protesta, di rivendicazione dei diritti inalienabili. Non c'è spazio nella mia decisione per derive di ordine psicologico, delle richieste oggettivamente precise, chiaramente formulate alle autorità competenti. Non ci saranno smozzature di soltanto in consulta, né pretesti psichiatrici. Se necessario, continuerò il mio sciopero della fame fino all'ultimo respiro. Non sono un imbecille, sto lottando per la vita. Siete persone meravigliose, difendete sempre libertà e rispetto. Vivrò con voi per sempre. È chiaro che queste frasi, come devo dire, sono un'accusa profonda al potere e allo Stato, e sono anche un invito a noi tutti a mobilitarci. Vediamo che proprio la vicenda di Cesare, ricordiamo Battisti, che è un anziano scrittore di 66enne, pieno di patologie, che non fa più politica da 40 anni. Cioè, bisogna capire allora Perché? Non lo sappiamo bene perché l'abbiamo citato prima. Allora, non ci sono nessune di quelle motività di carattere giuridico da porre una persona nelle sezioni d'alta sicurezza nel reparto dei reclusi dell'ISIS. Allora, se non è questo, diciamo, un atto di vendetta, ma la cosa più assurda è che non si è vista nessun deputato, nessun sincero democratico porre un minimo di indignazione rispetto a questa vicenda, che è una vera e propria opera di distruzione psicofisico di una persona. Ed ecco perché, ecco, ritorniamo ora al motivo del perché della paura della memoria storica. Le cose che, ecco, per dire, se noi vediamo il grande imbroglio che ci sta dietro la centrale e il ritorno al nucleare pulito, ricordiamo che, diciamo, in Cina è stato confermato l'incidente alla centrale atomica di Taishan. Sono state danneggiate 5 barre di combustibile. E, diciamo, come devo dire, c'è stata una perdita e quindi una diffusione nell'aria di inquinamento nucleare. Ricordiamo che, diciamo, in questa centrale atomica c'è quel reattore che, diciamo, di produzione francese e che sono quei reattori nucleari che, diciamo, il ministro Cingolani alla transizione energetica dice che non ci sono problemi e che sarà la questione del nucleare l'unica soluzione possibile se vogliamo mantenere questo stato di modernità. La domanda è proprio questa, anzi poi Cingolani, come tanti, dicono che non bisogna opporsi ideologicamente a queste scelte. Il problema significa che l'unica ideologia permessa nel mondo sarà quella del capitalismo, che attraverso il nucleare, attraverso le guerre, può mantenere il suo status. Ecco perché qua, diciamo, noi ci siamo sempre opposti contro le centrali nucleari. Ricordiamo le grandissime mobilitazioni, insomma, c'è voluto Chernobyl per far aprire gli occhi su che significa, per un periodo di tempo, che significa il nucleare. Poi abbiamo il Giappone, Fukushima, così come tante altre fughe nucleari che sottaciute, perché poi il problema, questo, debbono essere gestite a livello di comunicazione militare, quindi la censura militare. E questo, come devo dire, quanto il perché, diciamo, azzerare la memoria storica delle lotte sulle tematiche contro l'energia padrona. E ricordiamo che insieme alle centrali nucleari la grande transizione energetica saranno anche gli inceneritori e quello che sono fomentato, diciamo, decarbonizzazione, si parlerà, oggi siamo nel 2021, se ne parlerà forse tra 9 anni, per cui fino al 2030 carbone, tutto ciò di ignobile, di schifezza, diciamo, da immettere nell'aria, nell'acqua e sul terreno può essere fatto. E poi che dire? Ecco, a far parlare del perché della paura della memoria storica sono gli ultimi dati Istat. Che riporta che nel 2020 la povertà assoluta raggiunge il livello più elevato. Questi sono, io dico, ciò che l'Istat non sono, quindi, espressioni, diciamo, antagoniste, sono proprio i dati Istat che parlano chiaro. Allora, ribadendo, nel 2020 la povertà assoluta raggiunge il livello più elevato. È una condizione in cui si trovano poco più di 2 milioni di famiglie, 7,7% del totale, e oltre 5,6 milioni di individui, il 9,4%. La povertà assoluta aumenta, raggiungendo un livello più elevato dal 2005. Quindi, poi ci sta la povertà relativa, le famiglie sotto la soglia sono poco più di 2,6 milioni. Quindi la povertà assoluta poi abbiamo visto che diciamo, colpisce più alta nelle famiglie in povertà assoluta, sì, diciamo, la concentrazione nel mezzogiorno. Quindi anche nel nord le cose non vanno non meglio. Il problema è quindi, anche perché al nord dati Istat descrivono che vi sono oltre 2,5 milioni di poveri assoluti. E poi un dramma è quello legato alla povertà di minori. Abbiamo 1,3 milioni di minori in povertà assoluta. Quindi insomma, per i bambini e i ragazzi il tasso di povertà assoluta è cresciuto di oltre 2 punti rispetto al 2019. E la crescita complessiva, come devo dire, ecco, diciamo, questi dati Istat, ecco, ci riportano a quello che abbiamo detto prima, la paura dei corsi storici, della riproposizione di un vasto movimento di opposizione politica che possa mettere in discussione lo stato delle cose presenti. Ed ecco perché, diciamo, ecco, la vicenda degli operai della FedEx, vergognosa, pericolosa, che determinerà un precedente, lo sta già determinando. La fabbrica della FedEx Picentina è stata chiusa. I padroni della FedEx di Lodi, c'è un presidio di solidarietà ai colleghi piacentini, i padroni, è chiaro, hanno organizzato una squadraccia antisciopera che poi è spalleggiata visivamente, era così chiaro, dalla polizia in assetto di guerra, e che sarebbe intervenuta nel caso in cui i grumiri avrebbero avuto la peggio, ricordiamo che c'era un picchetto. Come devo dire, quindi il problema è sempre quello, è la paura della memoria storica, la paura che possano riproporsi e riprodursi, diciamo, scenari politici che in quegli anni, negli anni 70, non solo posano, come devo dire, un vasto movimento di opposizione contro ogni forma di ristrutturazione capitalistica ai danni degli operai, a linea dei sacrifici per far arricchire solo i padroni, ma hanno paura che, diciamo, visto che, diciamo, rispetto a queste nuove strategie, alle strategie del Fondo Monetario Internazionale, della BCE, del capitalismo industriale, capitalismo finanziario, gli scenari che stanno determinando, allora qual è quella di, come devo dire, porre la spada di Damocle della repressione contro quelle formazioni politiche che possono diventare punti di riferimento in grado di determinare un vasto fronte di opposizione di classe, quindi a riportare la lotta, lo scontro di classe in Italia. E si poveri cristi. Ecco, così, però è chiaro che anche a questo punto dobbiamo porre un problema, cioè questa nuova classe operaia delle grandi distribuzioni, delle fabbriche tessili, cioè allora come a Prato, altri esempi di aggressione agli operai, qua sembra che siamo arrivati alla Fiat di Valletta con i grumiri, gli squadristi, molti malandrini e delinquenti di destra minacciavano e picchiavano gli operai, li aggredivano prima delle grandi rivolte. Allora il problema è proprio questo, insomma, che ci sia un problema politico, perché bisogna far capire che le vicende di Cesare Battisti, di Persichetti, non sono slegate alle vicende di ordinaria repressione contro questi lavoratori, magari cingalesi, pakistani, indiani, qualche italiano e via dicendo, sottoposti ad orari a ritmi di lavoro da schiavi per una manciata di soldi, che ecco come si sono detto, come definisce brutti, sporchi e cattivi, come erano definiti i meridionali nelle fabbriche piemontorinesi e milanesi negli inizi degli anni 70. Allora il problema è che, ecco qual è la questione, il problema, la paura di rompere anche quel muro di omertà che ci sta attorno a queste vicende, ed è qualcosa che fa rabbia che questa vicenda di questi operai delle grandi distribuzioni, della FedEx e tant'altro, è come se riguardassero soltanto gli iscritti a quel sindacato, al SICOBAS, eccolo diciamo, ma è come, è nello stesso tempo come se il SICOBAS non permettesse che altri entrino dentro, cioè è una scena veramente assurda. Qua doveva scatenarsi uno sciopero generale in sostegno di questi operai di Piacenza, di Lodi e degli operai del tessile a Prato, così come tutte le situazioni di violenza contro i diritti umani e i diritti sindacali e le agibilità politiche. Invece no, è come se fosse recintato, delegato soltanto a quel collettivo, a quel sindacato a cui sono iscritti questi poveri lavoratori che lottano per la dignità, per avere un minimo di giustizia sociale ed umano, un minimo di diritti. Questo non si è registrato e questo ci riporta agli anni 70. Cioè, ecco la rilettura storica, la capacità di un fronte di opposizione, di un ampio movimento unitario, operaio, studentesco, di pensiero, di idee, di creatività, che siano in grado di riproporre la dignità umana principalmente nei posti di lavoro, proporre idee, proporre forme di autodifesa, militante rispetto a queste situazioni, come era il vasto movimento d'opposizione. Però stiamo vedendo che in Italia ci sta un deserto politicamente, perché non né dai sindacati ufficiali, né tanto è vero troviamo forme di appello unitario alle varie realtà sindacali di base e anche alle varie realtà distribuite nella nostra nazione, tutte tutta una serie del mondo dell'associazionismo, dei centri sociali, dei collettivi, a determinare un unico movimento di opposizione contro la repressione, contro la distruzione dei diritti sindacali e delle agibilità, per la dignità umana e per la dignità del lavoro. E allora, questo è diciamo, anche attrezzarsi alla questione dei recovery fund, che saranno gli unici soldi che circoleranno in Italia e in Europa, se nel pubblico e nel privato, e fare la lotta affinché questi soldi vengano finalizzati all'ambiente in modo reale, all'occupazione, al reddito universale, al salario minimo universale, alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, e quindi così come far sì che questo denaro non vada alle armi, non vada alle centrali nucleari, non vada agli inceneritori. Ecco qual è la questione, ecco perché diciamo la paura della memoria storica, ecco perché le minacce, come devo dire, repressive, insomma, le guerre preventive interne, una volta noi le chiamavamo, cose che si stanno riproponendo. Ma allo stesso modo, oltre a questo, abbiamo la vicenda delle stragi del lavoro, che da gennaio, oggi siamo a giugno, metà giugno, ormai hanno superato la quota delle 312 umani giovani e meno giovani morti nei cantieri, nelle fabbriche, eccetera, eccetera. Questo è il problema. Ed ecco perché sono i timori. I timori politici che ha il potere, diciamo, è proprio quello, che di fronte a queste ingiustizie, enormi ingiustizie sociali, politiche, delle libertà individuali, per non parlare delle vicende carcerarie, i suicidi, delle abilità. Cioè, quindi abbiamo, così come abbiamo anche la vicenda, ecco sempre per la questione del 41 bis, non lo avevo dimenticato, è di Nadia Desdemona Lioci, cioè che sta al 41 bis, insomma, cioè, allora il problema qual è? Riproporre in Italia la questione politica della creazione di un ampio fronte, un ampio momento di ricomposizione politica sociale. In grado di modificare la situazione dello stato delle cose presenti. Ci sono le condizioni, però non sono le siglette sindacali, non sono qualche sigletto ormai di partiti, di ML, Trotskis, queste singole siglette che diciamo non sono in grado di determinare, di essere un riferimento politico reale, non hanno lo spessore, non hanno il peso storico, cosa che invece ha un ampio movimento dell'autonomia sociale, in cui ricordiamo che ecco il Black Lives Matter può essere un riferimento, che a sua volta il Black Lives Matter ha avuto come riferimento il movimento il movimento dell'autonomia sociale in Italia degli anni 70. Ecco perché la paura della memoria storica, ecco perché io odio l'inno nazionale italiano, ma odio tutti gli inni nazionali, nazionalisti, europei e mondiali. Punto. Ciao compagni e compagne, alla prossima.